spero che per ora arriva presto a liberarmi da questo peso. Il mio corpo è carico di dolore, le mie gambe sono ormai straziate. Ed è subito sera.